esattamente il primo giorno in cui è iniziata con quelle sorelle la sua convivenza. Ricorda solo che ad un tratto la Wanda e la Luisa erano parte di lei, come una sola pelle. Gioia era più gioia per quelle tre amiche legate per sempre. Il solo vino il cordone le univa nell'anima, cuore nel corpo, sotto gli occhi della gente, degli uomini per sempre. Viene un giorno in cui lei si innamora di un giovane ragazzo dai modi gentili, e inizia a corteggiarla e le strappa un invito che lei per tanti mesi aveva sognato, ma neanche una parola con le amiche sue, che troppo spesso cercano di attirare l'attenzione. Mette il vestito più bello, lo chiude fino al collo ed è pronta ad uscire insieme a lui. Vendicativi non stanno nella pelle da tanta la voglia di farsi notare, e anche se restano nascoste la propria presenza la fanno intuire, e lui la invita a casa sua. Le sue mani sono su di lei, percorrono i suoi fianchi salendo la vita e più sopra il suo petto. Via la camicia uno stupore sottile che rende i tuoi corpi uno solo, lui le slaccia il dolce seno ed ecco le sorelle. E resta incantato, ora occhi soltanto per lui, la mente svuotata non vede niente di più. Tu fai di me come neve al sole, tu fai di me, ma lei lo sposta, si alza di scatto, lo guarda dritto in faccia, gli molla uno schiaffo. Lui vede sul suo volto uno sguardo tradito e non riesce a capire che cosa ha sbagliato. Lui pure innamorato delle amiche sue, non ha saputo accontentarsi solo del suo cuore. Gira e rigira, son Wanda e Luisa che vincono sempre la guerra dell'amore.